edizione. Eccoci pronti allora coi quotidiani in edicola e cominciamo allora dall'ultima notizia, proprio quella che ci ha dato poco fa il traffico. La riporta la prima pagina del Corriere della Sera a fondo pagina, perché è notizia davvero di questi minuti. Nella notte autotrasportatori ai caselli, volantinaggi, basta con i rincari, la protesta dei TIR dalla Sicilia al Lazio e, come avete sentito, è arrivata ormai con le prime luci dell'alba anche in Lombardia e Liguria. I blocchi del TIR sulle autostrade si espandono. Dopo la Sicilia dei forconi si sono radunati ai caselli di Calabria, Campania, Lazio, decine di camion e tir. Avete sentito, poi è successo anche in Liguria e in Lombardia. Ieri sera bloccate alcune uscite autostradali con blocchi nella notte. Stesse scene un po' dappertutto, così scrive il Corriere della Sera, e sentiremo oggi cosa succederà. Le aperture dei quotidiani dedicate ovviamente però ad altro, dicevamo, questa notizia delle ultime ore, quindi cercheremo di capire anche noi cosa sta succedendo. Apertura però dei quotidiani pressoché unanime dedicata invece all'avvio oggi al confronto sul lavoro tra governo e parti sociali. L'appuntamento è fissato alle 10 a Palazzo Chigi. Lavoro, scontro sull'articolo 18, questa è l'apertura della Repubblica. Monti, basta con questo tabù, la Camusso, vietato toccarlo. Ieri Monti ne ha parlato in TV ed è subito scoppiata la bufera. L'altra notizia che trovate un po' su tutti i quotidiani riguarda la manifestazione della Lega a Milano. Maroni non parla dal palco, vediamo sempre dalla Repubblica che a questo dedica l'immagine in prima pagina. Bossi, Berlusconi apre la crisi, la piazza lo fischia. La Stampa, anche qui Monti, articolo 18, niente tabù, Camusso non serve un nuovo contratto. E poi ancora la Lega Berlusconi stacca la spina al governo, altrimenti cade la Lombardia. Il Messaggero, anche qui Monti, no a tabù sul lavoro, articolo 18 è di nuovo scontro tra governo e CGIL, oggi il tavolo con i sindacati e le imprese, la Lega attacca il premier, fischi per Bossi. Un'intervista dal Messaggero, Alfano, riforma della giustizia, ora si può trovare l'intesa. Anche il Corriere della Sera dedica in qualche modo a questo l'apertura, il premier e l'articolo 18 sul lavoro, trattativa senza tabù, ma il titolo principale del Corriere della Sera è riferito ad un altro tema, una società per ridurre il debito, è il piano, almeno così racconta il Corriere della Sera, per intervenire sui conti pubblici con il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti. Il governo Monti, scrive il Corriere della Sera, punta a ridurre subito il debito pubblico per 50 miliardi aumentabili in seguito. Come? Cedendo Sace, Finteca e altre partecipazioni alla Cassa Depositi e Prestiti. Verrebbe così pagata buona parte degli arretrati ai fornitori senza aumentare il debito e resterebbe una riserva per garantire le prime tappe del riequilibrio della finanza pubblica. Vedremo cosa succederà. Anche il Corriere della Sera, l'immagine a centro pagina è quella del comizio a Milano. Bossi insulta Maroni e avverte il PDL, giù il governo o cade Formigoni. Se il popolo leghista ormai rifiuta la atto di fede, così Antonio Polito sul Corriere della Sera. Altre notizie però da segnalare, allora dal Corriere della Sera. Già vi ho segnalato la protesta dei TIR dalla Sicilia al Lazio e poi via via sta risalendo in queste ore la penisola. Altra notizia da segnalare, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, sono i dubbi del governo sulla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020. La decisione va presa entro il 15 febbraio, ma stando a questo articolo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, l'ipotesi potrebbe essere quella di in qualche modo lasciar perdere e puntare invece alle Olimpiadi del 2024 e quindi passare in qualche modo il turno, i dubbi del governo alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020, così scrive il Corriere della Sera. Dal Messaggero un'altra segnalazione, la notizia ve l'abbiamo data anche in GR24, la Farnesina richiama Vattani, il console, ricorderete che esaltò il fascismo in un concerto rock a Roma, è stato richiamato dal Giappone dalla commissione d'indagine. E poi invece dalla Stampa, anche qui vi segnalo altre notizie in qualche modo diverse. Innanzitutto l'immagine a centro pagina, la Stampa sceglie quella di Gingrich, crea il caos tra gli anti Obama, le primarie repubblicane nella corsa alla Casa Bianca in South Carolina, è stato travolto il super favorito Romney, ora tocca alla Florida, la corsa è aperta, così scrive la Stampa, che è anche un reportage alquanto tanto curioso oggi, nel Giappone che cambia pelle per non morire, così scrive La Stampa. Sostegno all'Europa con l'acquisto di massicci bond e nuovi rapporti internazionali, così dopo 15 anni di deflazione Tokyo cerca di risollevarsi dalla grave crisi sfruttando la ricostruzione post tsunami, così sulla Stampa. Sulla Repubblica altre segnalazioni, una riguarda il processo Mills per il quale si attende la sentenza per Berlusconi ormai a brevissimo, battaglia legale per arrivare a sentenza, i piani del Cavaliere contro un verdetto al photo finish. E poi altra segnalazione, il caso del silicone tossico in Francia nelle cosiddette protesi PIP, le protesi al seno. Se lo scandalo delle protesi al seno cancella il diritto alla bellezza, scrive Umberto Veronese, andando un po' in qualche modo controtendenza, credo che la cura del proprio corpo e della propria immagine sia non solo legittima ma anche terapeutica, così scrive Umberto Veronesi, che di queste vicende sicuramente ne ha viste molte. E poi ancora invece, parlando della Costa Concordia, scrive La Repubblica, dopo le polemiche sugli inquilini, dopo il giallo sui clandestini a bordo, ci sarebbe un altro giallo: sparito il PC di Schettino, sarebbe stato consegnato ad una donna. Anche questa una vicenda tutta da chiarire. E sempre restando alla vicenda della Concordia, un'altra notizia ve la segnalo questa mattina dal Secolo XIX: Costa il timone agli americani, in retroscena Carnival manda il numero 2 in soccorso a Foschi, l'amministratore delegato di Costa Crociere, mentre ieri è sfilato a Genova l'orgoglio dei dipendenti della Costa, che ora temono per il loro futuro. Queste le segnalazioni dai quotidiani. Naturalmente, come sempre, la rassegna stampa più ampia attorno alle 7:20. Ma noi restiamo ancora alle notizie di queste ore, notizie che si stanno delineando e che sono in qualche modo importanti per l'Europa. Ci sono state due consultazioni ieri, una in Finlandia, una in Croazia. Da entrambe si attendevano dei segnali per l'Europa in crisi. Ebbene, ne è emerso che saranno due europeisti a contendersi la presidenza finlandese, nonostante i candidati euroscettici abbiano molto puntato su questa campagna elettorale. E ieri si è votato poi anche in Croazia, dove nel referendum per l'adesione all'Unione Europea è arrivato un sì, anche se non convintissimo, ma un sì è arrivato. Allora, due segnali per l'Europa, in qualche modo possiamo dire buone notizie comunque. Io lo chiedo al collega Sergio Nava, che ha seguito il voto. Sergio. Sì, Anna, in questo periodo di grave crisi economico-finanziaria per l'Unione bisogna dire che almeno due buone notizie per l'Europa sono arrivate ieri sera. La prima dalla Croazia, che ha votato nel referendum popolare per l'adesione all'Unione Europea. Ebbene, due terzi dei votanti hanno detto sì all'ingresso in Europa, per la precisione il 66,2% contro un 33,1% di contrari. Va pure precisato che l'affluenza è stata veramente bassa, ben al di sotto del 50%, 43,55%, battuto anche il record negativo dell'Ungheria, quindi la Croazia, possiamo dire, entra in Europa ma senza un grande entusiasmo. Questo è un dato di fatto. Il primo ministro Zoran Milanovic ha detto: abbiamo preso una decisione storica, cruciale per il nostro futuro, ma il successo dipenderà solo da noi stessi. La Croazia, va precisato, entrerà nell'Unione Europea il 1 luglio 2013, il trattato di adesione è già stato firmato lo scorso dicembre e quindi tra circa un anno e mezzo diverrà il 28esimo paese dell'Unione Europea. L'altra buona notizia per l'Europa invece dalla Finlandia, dove c'era molta contesa tra i due candidati europeisti e i due candidati euroscettici per le presidenziali. Nella lontana Finlandia, dove la prospettiva rigorista per quanto riguarda l'euro è stata messa un po' in difficoltà dalla crisi nei paesi del sud Europa, ebbene il segnale è stato positivo perché i due candidati europeisti, il conservatore Sauli Niinisto, 63 anni, e l'ambientalista Pekka Haavisto, hanno invece vinto la consultazione e andranno al ballottaggio il prossimo 5 febbraio, sconfitti i due candidati euroscettici. Quindi si può dire che i finlandesi hanno dato prova di credere in quei politici che sostengono il disegno europeo, quindi di non avere paura dell'Unione Europea. Ha vinto Niinistö col 37% dei voti, conservatore, Pekka Haavisto 18,8%, secondo, e il 5 febbraio si sfideranno. Per ora è tutto. Prima edizione. 6:35 minuti, mi ha raggiunto Daniele Biacchessi. Eccoci. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchessi. Oggi è il 23 di gennaio. Il 27 gennaio è il giorno della memoria, il giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. E in tutta Italia e nel mondo si celebra proprio in questi giorni la memoria della Shoah, la memoria delle deportazioni di ebrei, di detenuti politici di ogni idea, di rom, di sinti, di omosessuali, nei campi di concentramento sterminati, nelle decine di campi disseminati in Germania, in Polonia e anche in Italia. Si celebra la memoria di tutte quelle vittime innocenti del nazismo, del fascismo, come le migliaia trucidate in Italia, quelle nell'armadio della vergogna, che hanno avuto certamente una giustizia tardiva. Allora oggi vi proponiamo una testimonianza importante, la testimonianza di Franco Giustolisi, un giornalista che per molti anni ha lavorato nel cosiddetto armadio della vergogna, ritrovato nel 1994 nella sede generale della Procura Militare, dove sono stati ritrovati dopo tantissimi anni 2274 fascicoli che contenevano i nomi e i cognomi di tutti i responsabili delle stragi di Mazzabotto, di Sant'Anna di Stazzema, di Fivizzano e di molte altre. Ecco Franco Giustolisi. Quasi a 70 anni di distanza da quei fatti, questi ergastolani, che erano 21 alla fine del 2010, cioè un anno fa, poi qualcuno nel frattempo è morto perché sono tutti vecchi, ebbene sono liberi, tranquilli, perché nonostante gli appelli pubblici fatti dai procuratori militari, il potere politico non si è mosso, i ministri della difesa, La Russa, della giustizia, Alfano, implicitamente degli esteri, non hanno fatto nulla. Appelli pubblici fatti nel 2009, nel 2010, nel 2011. I magistrati militari hanno fatto il loro dovere questa volta, per il semplice motivo che sono diventati come i magistrati ordinari, quindi indipendenti, mentre prima erano soggetti al potere politico. Ebbene, hanno fatto tutto quello che si poteva fare. Quindi, primo fa questa giustizia presa in giro, in pratica, mentre si è fatta quasi la guerra, si è quasi dichiarata la guerra al Brasile per Cesare Battisti, che rispetto a questi qui, lo dico per assurdo, evidentemente sembra una specie di mammoletta. C'è il muro del silenzio intorno a questa vicenda, non si capisce perché. Pochi mesi fa c'è stato l'anniversario, il 10° anniversario della strage delle Torri Gemelle, sono stati fatti riti, numeri speciali, cerimonie. Su questo niente, il silenzio più assoluto. Perché? Chi vuole il muro del silenzio? Come mai i partiti come il PD non si è mosso in questa direzione nonostante le sollecitazioni? Come mai l'Ampi Nazionale nessuno si muove? Come mai è stato sollecitato anche il Presidente della Repubblica? Non ha risposto. Perché? Qual è il mistero che c'è dietro? Perché non si vuole parlare di questo? Italia in controluce torna oggi alle 13.30 su Radio 24, grazie a Daniele Biacchessi. Gli aggiornamenti di queste ore però incombono, dicevamo, l'abbiamo sentito anche dagli aggiornamenti del traffico, la protesta dei tir dalla Sicilia ormai esplosa, non più solo l'isola, ci sono il Lazio, la Calabria, altre situazioni complicate dalla notte. Allora facciamo un punto velocemente con Adriana Fracchia. Sì, buongiorno, come dicevi tu proseguono i blocchi dei tir e si espande la protesta del movimento dei cosiddetti forconi contro i rincari del gasolio, dei ticket autostradali e dell'IRPEF. Dopo la Sicilia, dove comunque permangono ancora dei blocchi, gli autotrasportatori si sono radunati anche i caselli in Calabria, Campania e Lazio. Lo sciopero andrà avanti per 5 giorni, decine di camion e tir bloccano da ieri sera le uscite autostradali di Caserta Sud, Capua e Santa Maria Capua Vetere per spostarsi poi verso Nola e Caserta Nord. Sciopero degli autotrasportatori anche in Lazio, in particolare in Ciociaria, tir fermi nei pressi dei caselli della 1 Roma-Napoli, a Cassino, San Vittore, Frosinone e ad Anagni. Il traffico si sta intensificando, ma la Polizia Stradale e i Carabinieri stanno per il momento monitorando la situazione e non si registrano ancora gravissimi disagi. Sempre nella notte blocchi si sono registrati anche al nord, in Lombardia e in Liguria. E per il momento è tutto. Grazie ad Adriana Fracchia. Attesa oggi per un'altra questione. Alle 10 si incontreranno a Palazzo Chigi governo e parti sociali per aprire l'atteso tavolo sul lavoro. Ieri Monti ha parlato di articolo 18, anche questo pesa nella discussione di oggi. E allora io saluto questa mattina un protagonista dell'incontro a Palazzo Chigi. Buongiorno e benvenuto a prima edizione al segretario della UIL Luigi Angeletti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Segretario, è una giornata importante, alle 10, tra poche ore vedrete il governo, bisogna cominciare a discutere anche di lavoro, la fase 3 del governo Monti, però abbiamo tempo per discuterne questa mattina e allora io le chiedo innanzitutto di fare un passo indietro e partiamo dal temi con cui abbiamo chiuso invece la scorsa settimana, cioè delle liberalizzazioni. Lei, peraltro usando la stessa espressione di Bersani, ha detto che si poteva fare di più. Cosa mancava secondo lei? Tutto ciò che riguarda la concorrenza e soprattutto l'aggregazione di quelle migliaia di imprese pubbliche, praticamente di proprietà di comuni, province e regioni, ne abbiamo 7.000 che offrono servizi costosi e di incerta qualità rispetto a quanto avviene negli altri paesi. Accorpando queste società si risparmierebbe, si aumenterebbe l'efficienza, si migliorerebbero i servizi e si ridurrebbero i costi. E questo francamente non è stato fatto, probabilmente ha pesato molto la opposizione occulta dei partiti. Quanto crede abbiano pesato i partiti in queste liberalizzazioni? Su alcune praticamente nulla, non erano, secondo me non tutti erano assolutamente favorevoli, altrimenti l'avrebbero fatte quando hanno avuto modo di governare. E su alcune, come quelle che ho detto io, hanno pesato e anche se non è apparso si è visto. Possiamo dire che anche chi era d'accordo tutto sommato ha preferito che l'abbia fatto un tecnico? Sicuramente, in Italia liberalizzare alcuni servizi è una necessità per ovvi motivi, perché crea occasioni di lavoro, non sicurezze ma sicuramente occasioni di lavoro, tendenzialmente riduce anche i costi per i consumatori, ma è ovviamente molto pericoloso dal punto di vista politico, perché le organizzazioni che sono colpite, le categorie che sono colpite sono dal punto di vista numeroso non tantissime, ma hanno una grandissima influenza politica e soprattutto sono molto vendicative, quindi i partiti stanno alla lontana da tutto ciò. La vedo meno scettica della sua collega Camusso sulle possibilità di effettivo risparmio per le famiglie da queste liberalizzazioni. No, se sono vere funzionerà. Certo che se è una finta, cioè se poi alla fine vale il vecchio detto purtroppo, no, che tutto deve cambiare perché tutto resti uguale, allora sì, allora ovviamente sarà una delusione. Mi dice la Io cosa. Ovviamente non me lo auguro. Speriamo. Mi dice la cosa che le è piaciuta di più di queste liberalizzazioni? Quella che riguarda l'energia. Quella la considero. L'energia è il nostro tallone d'Achille. Gli alti costi di energia, che più del 30% rispetto ai nostri concorrenti negli altri paesi europei, costa decine di migliaia di posti di lavoro. Non solo tariffe gas, decine di migliaia di posti di lavoro, imprese che non riescono a nascere e quelle che ci sono riducono la loro capacità di produzione perché i costi di energia li mettono fuori mercato. Senta, questa mattina comincia un'altra fase, alle 10 se non sbaglio avete appuntamento con il governo? Sì, alle 10. comincia il confronto sul lavoro. Arriveremo poi al nodo spinoso dell'articolo 18. Prima però le chiedo un'altra cosa. Che clima si respira? Come sono stati i confronti con questo governo? Allora, i confronti sono stati di questo tipo. Noi abbiamo parlato, loro hanno ascoltato. Speriamo che ovviamente la scena non si ripeta oggi e soprattutto non si ripeta quello che io temo più di tutti, cioè questo scenario che il governo ci ascolta magari con attenzione, con educazione e poi fa come gli pare. È diverso il confronto con ministri tecnici rispetto ad altri politici quando poi siete al tavolo al chiuso delle riunioni? Certo. In cosa? Per una ragione molto importante. Loro sono i ministri tecnici sono del tutto, o non del tutto, diciamo così, moderatamente attenti al consenso, cioè gli interessa ma non molto. Come dicevamo prima, hanno più le mani libere. Certo, i ministri politici sono molto più sensibili e quindi di conseguenza è molto più semplice per noi trattare con i ministri politici. Avete un'arma in meno, in qualche modo. Esatto. E ne sono consapevoli, secondo lei? Sicuramente, non sono stupidi, anzi. Allora entriamo anche nel vivo, perché forse un governo politico in questo momento alcuni temi non li avrebbe toccati. Monti invece è stato chiarissimo, ha detto: non ci sono tabù, in una fase delicata per il paese come questa siamo pronti a discutere su tutto, e quindi ieri ha detto parleremo anche dell'articolo 18. Quando questa mattina la Fornero pronuncerà la parola articolo 18, che farete? Intanto bisogna vedere se la pronuncerà. Non è convinto? No, se no non l'avrei detto. Secondo, bisognerà vedere che tipo di ragionamento fa. Noi non abbiamo tabù, noi vogliamo fare delle scelte che abbiano un senso. Tutto qua. Non è che abbiamo delle cose che non siamo disposti a discutere per principio perché ci dà fastidio. L'articolo 18 parla di licenziamenti senza giustificato motivo. C'è qualcuno in qualche parte del mondo o anche nel nostro paese che voglia consentire licenziamenti senza motivo? Se invece i motivi ci sono, come purtroppo accade, carattere economico, contrattuale e quant'altro, allora si discuta di questi, cioè dei motivi per i quali si deve o si può licenziare. Non dire, siccome non ci sono regole chiare, aboliamo semplicemente le regole e consentiamo alle imprese di fare come gli pare. Questo francamente è inaccettabile, per questo motivo, non perché sia un tabù. Secondo lei, perché alla vigilia di un incontro così delicato il Premier Monti ha tirato fuori questo argomento in maniera così netta? Ci possono essere varie ragioni, una delle quali per far vedere che non si fa dettare l'agenda dagli altri, del tutto legittimo. Ma ciò che interessa a noi è sempre il merito e le ragioni del merito, cioè perché una cosa è giusta farla e perché invece non è giusto farlo. Che si aspetta dalla sua collega Camusso se davvero l'articolo 18 dovesse venire fuori? Secondo lei potremmo assistere già ad un duro stop prima ancora di iniziare sul tema del lavoro? Credo che avrà gli stessi comportamenti che avremo noi, dipende come dicevo dal tema, se lo toccheranno, se ne parleranno o meno e soprattutto che cosa diranno nel merito. Cosa si attende invece? Posso pure dire che l'articolo 18 per dire che rimane così com'è? Non è escluso. Non è... Appunto. Ce lo dirà lei dopo che ha sentito il governo. Lei mi dice... Prima edizione. Ed è rimasto con noi il segretario della UIL Luigi Angeletti. Parlavamo prima, lei mi diceva questa volta vorrei sentir parlare loro. Mi sembra di poter tradurre così, insomma, quel che ci ha detto. Esattamente così. Vorremmo vedere se hanno soprattutto gli argomenti e se hanno delle proposte da fare, soprattutto le ragioni di perché le fanno, no? Le argomentazioni sono molto importanti, anzi sono del tutto decisive. I confronti sono veri quando le parti hanno la capacità di spiegare le loro ragioni e non semplicemente di enunciarle. Delle novità che sembrano profilarsi, o almeno di cui sembra che il governo abbia idea per i giovani che entrano nel mercato del lavoro, di quelle che ne pensa? Allora, se è quello che diciamo noi, sostanzialmente questo, di puntare molte delle nostre carte sull'apprendistato, favorendolo dal punto di vista contributivo, dal punto di vista fiscale, che significa incentivare l'assunzione di giovani, consentirgli di imparare un mestiere, un lavoro, una professione, di approfondire le loro conoscenze e quindi renderli sul serio degli attori sul mercato del lavoro, credo che questo sia la strada maestra, che peraltro viene seguita in quasi tutti i paesi europei, almeno tutti quelli più industrializzati. Questo sarebbe per noi un'ottima cosa. Questo va bene. Senta, noi siamo in chiusura, io le faccio un'ultima domanda: se dovesse dare un voto al suo ottimismo o pessimismo col quale questa mattina tra poco entrerà a questa riunione con il governo, da 1 a 10 cosa mi direbbe? Che cosa devo dire, l'ottimismo o il pessimismo? Vi dica lei, diciamo l'ottimismo, allora, facciamo un atto di buona volontà. 6 meno meno, di ottimismo. Beh, insomma, diciamo, speriamo di uscire con una sufficienza. Esatto. La ringrazio anche per essere stato alla battuta, grazie per essere stato con noi Luigi Angeletti, segretario della UIL. Buona giornata. Grazie, buona giornata a lei. E alle 10 dunque l'incontro a Palazzo Chigi. Noi con Prima Edizione invece ci fermiamo qui. Buona giornata ancora da Anna Migliorati, ci attende il giornale radio.